Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Ivamondi! Occhialone! Agno! Campana cappina tutti! Esterina i tedeschi! Tedeschi! Lester Puma vengo! Achtung! Achtung! Alle Abteilungen sind verpflichtet binnen 12 Stunden. È l'alba del 16 ottobre 1943. I nazisti entrano nel ghetto di Roma. È la deportazione degli ebrei romani verso Auschwitz. Partiranno nei vagoni piombati in 1039. Ritorneranno in 16. Stamattina, proprio da Largo, 16 ottobre 1943, la piazza che ricorda quell'abominio, è partita una corsa podistica promossa dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. La Run for Mem, la corsa della memoria, che ha toccato i luoghi simbolo di quella Roma sparita ma non dimenticata. Oltre a Largo 16 ottobre, piazza San Bartolomeo all'Isola, su quell'isola tiberina nell'ospedale della quale alcuni ebrei trovarono salvezza, per arrivare poi al carcere di Regina Coeli, prigione di molti oppositori al nazifascismo. Correre oggi per quelle strade, su quei marciapiedi, vuol dire rivivere quei momenti, quel dolore, ma anche proiettarli verso il futuro, con un significato nuovo e diverso. Attraversiamo allora oggi, insieme qui a Olimpia, le strade di Roma e della sua memoria, rivivendone ricordi e protagonisti. E partiamo proprio da chi questa corsa l'ha voluta e organizzata. Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, benvenuta a Olimpia, la città dello sport. Grazie, buonasera a tutti. Presidente, ci spieghi subito com'è nata la Run for Mem. Allora, questa iniziativa si inserisce all'interno di una scelta di eventi per le celebrazioni della memoria di quest'anno, dove abbiamo voluto affermare il concetto della vita e quindi una memoria per la vita e una memoria per il futuro. E allora l'idea era in una duplice direzione: una, che quando succedono cose terribili, laceranti a un popolo, ma anche a noi nel nostro privato e personale, poi c'è una vita e bisogna imparare ad alzarsi, ricominciare a vivere, ricominciare a guardare il mondo, ricominciare a correre. Quindi dal passato verso il futuro e sapere che deve esistere un futuro. L'altro concetto inverso è che per avere un futuro e per poter correre per tutti i giorni nei quali noi siamo così molto presi dalla nostra vita frenetica, specialmente in una città come quella di Roma, si può correre, ma bisogna anche sapere perché possiamo correre, siamo liberi di correre e quindi diciamo di essere circondati da un contesto storico, e nel caso di Roma sono determinati luoghi che attraversiamo. Nel caso della corsa di domenica abbiamo attraversato non solo virtualmente ma fisicamente, però ecco, come idea, il nostro futuro dipende anche da quello che noi abbiamo attraversato nel passato e bisogna averlo presente quando si vive anche nel quotidiano e portarcelo con noi questo passato, sapendo che però stiamo vivendo e correndo. Una memoria che quindi non diventa fardello insostenibile, ma patrimonio vivo che ci accompagna passo dopo passo verso il futuro. Non è un caso quindi, Presidente Di Segni, che la Run for Mem di oggi abbia avuto un testimone d'eccezione. A correre, anzi meglio a marciare, oggi per le strade di Roma c'è stato infatti un testimonial d'eccezione, appunto. Shaul Ladani, che con la sua vita ha attraversato tutto il Novecento. Marciatore israeliano sopravvissuto all'Olocausto e alla strage di Monaco 1972. Una marcia della memoria, la sua e quella di tutti i partecipanti, che lega sport e ricordo guardando al futuro. What is sure that to be a long distance walker or a long distance runner, it's the same. You need to have that determination. Quel che è sicuro è che l'essere stato un marciatore ha forgiato la mia determinazione nel superare tutto ciò che mi è accaduto, spiega Ladani. Per rivivere la sua storia incredibile ed eccezionale ci ha raggiunto in collegamento il nostro secondo ospite. Amico e collega di Tutto Sport, Andrea Schiavon è anche l'autore di 5 cerchi e una stella, edito da ADD, il libro in cui ripercorre la vita di Shaul Ladany. Andrea, benvenuto a Olimpia, la città dello sport, e grazie per essere oggi il nostro ospite. Buonasera a voi. Ecco Andrea, come hai conosciuto Shaul Ladany? Beh, è stato un incontro in più tempi, nel senso che il suo nome l'ho letto in un articolo che apparve sul New York Times ancora nel 2008 e poi ho avuto un'opportunità di viaggiare in Israele in occasione della prima maratona di Gerusalemme, che in quel momento ho detto, beh, visto che vado fino a lì, chissà se questo Shaul Ladany sarà ancora vivo. E da lì ho cercato con un po' di telefonate, un po' di mail, di capire A, se fosse ancora vivo e B, se avesse voglia di incontrarmi e di parlarmi. Così è nato uno splendido sodalizio letterario, quindi, ma ancor di più una profonda amicizia, rinsaldata anche dalla marcia a cui avete partecipato insieme oggi a Roma. Sì, perché Ladany è ancora oggi un vero e proprio marciatore, giusto Andrea? Sì, lui ha una sua routine quotidiana, poi il professor Ladany abbina anche in questa fase, in questa terza fase della sua vita, abbina sempre i suoi impegni accademici di docente di ingegneria, per quanto in pensione, ma continua a seguire le ricerche, ha appunto la sua vita di atleta anche lì in pensione, per cui ogni giorno lui fa una decina di chilometri. Poi, come tu ben sai, la sua follia annuale è festeggiare il suo compleanno percorrendo in chilometri il corrispettivo della sua età. Quindi l'ultimo compleanno quanti chilometri ha fatto? 80. È stato emozionante, io era da non ci vedevamo da più o meno un annetto, un po' di più, ho voluto fargli una mezza sorpresa accompagnandolo in questa passeggiata. È stato veramente molto bello, perché poi strada facendo si aggiungevano persone. Sembrava di stare dentro una scena di Forrest Gump. Incredibile, davvero incredibile. Soprattutto se si pensa che fin da bambino a 8 anni Ladany è sopravvissuto al dramma della Shoah, pur essendo stato internato alcuni mesi a Bergen-Belsen. Sì, che è il campo di concentramento nel quale morì anche Anne Frank, che era poco più grande di Shaul quando entrò a Bergen-Belsen. Shaul è entrato a Bergen-Belsen più o meno a metà del 1944 e all'epoca aveva 8 anni e ne uscì 6 mesi dopo. So I remember the hunger, the cold. We have been on standing out for roles, for being counted for hours in the extreme cold and rain. Ricordo la fame, il freddo, i nazisti ci lasciavano per ore e ore al gelo e sotto la pioggia per l'appello quotidiano, sottolinea Ladany. Un ricordo ancora molto vivo nella sua memoria, vero Andrea? Lui ha dei ricordi molto vividi, appunto, quanto possono rimanere impressi nella mente di un bambino di 8 anni. In particolare mi raccontava che aveva molta molta fame, pativa la fame in quel periodo, e ricordava che al di là del filo spinato e delle reti elettrificate c'era una pianta di pomodoro, e lui la guardava crescere e diceva che appunto vedere questa pianta era un supplizio ulteriore per lui. Come riuscì a salvarsi, Andrea, questo bambino di 8 anni, dalla tragedia della Shoah? Ha attraversato anche in quell'occasione un pezzo della storia, in quel caso della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, i nazisti a un certo punto, con la guerra che stava ormai, aveva preso una piega molto chiara, cercavano di sfruttare in ogni modo questi ebrei prigionieri, e in alcuni casi hanno proprio barattato economicamente la libertà di determinati ebrei che tenevano appunto ostaggio. Nel suo caso quella parte di storia è nota come lo scambio tra Eichmann e Kastner, è molto nota come storia in Israele. Ci fu proprio una contrattazione che creò anche dei casi all'interno della comunità ebraica, perché appunto era un contrattare tra vite umane, dare un valore economico alle vite umane. Ecco, basterebbe questo per fare di Shaul LaDani un testimone d'eccezione dell'intero Novecento, ma la sua storia ha ancora tanto altro da raccontare. Allora, Noemi Di Segni, Andrea Schiavon, un attimo di pausa e poi torniamo insieme qui a Olimpia con la Run for Mem e la vita di Shaul LaDani. Olimpia, miti e verità dello sport. La corsa della memoria, la Run for Mem. Questa è l'iniziativa che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha promosso oggi a Roma, in occasione delle celebrazioni per la giornata della memoria del 27 gennaio. Ne stiamo raccontando lo svolgimento e il significato oggi qui a Olimpia, insieme al presidente del Lucei, Noemi Di Segni, e al giornalista Andrea Schiavon, autore del libro, edito da ADD, Cinque cerchi e una stella, che racconta la storia di Shaul LaDani, il marciatore israeliano sopravvissuto alla Shoah e all'eccidio di Monaco 72, e che è stato ancora oggi in marcia, 80 anni passati, anche a Roma, proprio per la Run for Mem. Andrea Schiavon, stavamo rimpercorrendo insieme proprio la vita di LaDani, scampato a Bergen-Belsen, come ricordavamo, ma anche combattente a difesa della sua Israele nei momenti più drammatici della vita del paese. 31 maggio 1967, la guerra dei sei giorni. Il presidente iracheno Abdel Rahman Aref dichiara: l'esistenza di Israele è un errore che deve essere rettificato. Questa è l'occasione che abbiamo per cancellare questa ignominia che ci accompagna sin dal 1948. Il nostro obiettivo è chiaro: cancellare Israele dalla carta geografica. Il giorno successivo, in Israele viene varato un governo di unità nazionale. Moshe Dayan è ministro della difesa. Sì, Shaul LaDani ha combattuto sia la guerra dei sei giorni sia nella guerra di Yom Kippur e più altri momenti, diciamo, meno noti, ma comunque di attriti ai confini di Israele. Io con lui ho parlato di questo perché comunque il professor LaDani ha comunque una visione ampia, avendo vissuto a lungo anche al di fuori di Israele, ha vissuto e insegnato negli Stati Uniti per un lungo periodo, poi ha insegnato a Singapore, in Sudafrica, insomma ha una visione abbastanza globale. Nel suo caso lui mi ha detto che, visto che quando è tornato per la guerra dei sei giorni e per la guerra di Yom Kippur, lui si trovava negli Stati Uniti e avrebbe potuto, diciamo, abbastanza facilmente evitare di rientrare, ma lui ha detto che non sarebbe stato a posto con la sua coscienza se si fosse nascosto e avesse lasciato parenti e amici in una situazione di pericolo. Di lì a pochi anni LaDani difenderà la bandiera di Israele nel modo a lui più proprio, marciando, cioè, sullo scenario più prestigioso, le Olimpiadi, ma anche nell'occasione più drammatica, i Giochi di Monaco 1972, quando all'alba del 5 settembre il comando del gruppo terroristico palestinese di Settembre Nero penetrò nel villaggio olimpico e prese in ostaggio 11 rappresentanti della delegazione israeliana. Il tentativo di fuga finì in strage, con la morte di 11 atleti, 5 terroristi e un poliziotto tedesco. LaDani scampò all'agguato per puro caso, vero Andrea? Le vittime di Settembre Nero, i componenti della delegazione israeliana che poi morirono, alloggiavano nell'alloggio numero 1 e numero 3. Shaul LaDani, insieme ad altri compagni, alloggiava nel numero 2. E lui dice che ha provato in tanti modi a capire qual è stata la ragione per cui il loro alloggio è stato saltato. Una delle ipotesi che ha avanzato è che, siccome nel suo appartamento stava anche un atleta del tiro a segno, ha pensato che abbiano optato sugli altri alloggi per avere una resistenza diversa, ipotizzando che potessero esserci magari o armi o comunque una capacità di resistenza maggiore da parte degli occupanti di quell'appartamento. Ecco, Shaul visse da vicino proprio quelle ore angosciose. Ovviamente le trattative si protrassero per tutto il giorno successivo all'attacco, perché poi diciamo la strage si consumò quando i terroristi stavano per andarsene a bordo di due elicotteri che avevano richiesto appunto nell'ambito delle trattative. E appunto lui ricorda molto bene quando videro i loro stessi compagni che venivano portati e fatti salire su dei pulmini per appunto per raggiungere l'aeroporto, e vederli legati e bendati, cioè che gli ricordava delle situazioni che aveva vissuto in Germania quasi 30 anni prima, durante appunto l'Olocausto. Allora, come oggi, un legame forte tra Roma e le vicende di Shaul. Nelle parole del rabbino capo Elio Toaf, il riflesso dello stato d'animo della comunità ebraica romana. La notizia del massacro di Monaco, ha detto Toaf, a opera di criminali assassini troppo spesso definiti a torto col nome nobile di guerriglieri, ha gettato nel lutto chiunque ha ancora fiducia nei valori più nobili della giustizia e dell'umanità. Secondo l'ebraismo, salvare una vita equivale a salvare il mondo. A Monaco, invece, abbiamo visto uccidere soltanto per troncare delle giovani vite di atleti che erano andati per gareggiare in una lotta leale, che aveva come supremo ideale l'affratellamento delle genti, l'armonia e la pace. Bastarono poche ore a Monaco per cancellare l'aria festosa dei giochi, la vita degli amici più cari, con cui Shaul era stato poi fino a poche ore prima della tragedia, giusto? La sera prima della strage, buona parte dei componenti della delegazione andarono insieme ad assistere a uno spettacolo teatrale, e c'è una foto che li ritrae insieme a Shaul. Vediamo, l'attacco è stato intorno alle 5 del mattino, è una foto scattata 7-8 ore prima. Nelle nostre chiacchierate abbiamo ovviamente parlato anche della gara, però è sempre passata in secondo piano rispetto a quello che è stato il dramma che si è vissuto lì. Una cosa su cui invece il professor Ladani ha sempre preso posizione, anche recentemente è stato intervistato dalla BBC e da France Press, dopo gli attentati di Parigi, ad esempio allo Stade de France, lui ha sempre avuto questa opinione da Monaco in poi sul fatto che non ci si debba fermare di fronte a questi atti di terrorismo. Anche in quell'occasione lui era tra quelli che era favorevole al fatto che i giochi olimpici andassero avanti, e anzi addirittura secondo lui la delegazione israeliana avrebbe dovuto continuare a restare a Monaco. Andrea Schiavon, abbiamo ripercorso insieme la vita straordinaria di Shaul Ladani. Shaul è ancora oggi, a 80 anni, un marciatore formidabile, ma c'è una lezione, un'eredità che già ci arriva dalle sue vicende. La cosa che mi ha affascinato nel lavorare con Shaul è proprio questa, cioè lui è dotato di una memoria molto chiara e molto, molto nitida di tutto quello che ha attraversato nella sua vita, ma non ha mai consentito al dolore di prendersi tutti i giorni che sono venuti dopo. Lui non dimentica, però allo stesso modo vive proiettato in avanti. In questo forse c'è una rappresentazione plastica di tutto questo nella specialità che ha scelto nella sua vita, cioè la marcia. Il marciatore raramente si gira a guardare quello che succede alle sue spalle, è sempre proiettato in avanti, e così ha vissuto anche Shaul Ladani tutta la sua vita e continua a viverla. E questa è la cosa bella, perché parlare con lui vuol dire non dimenticare nulla, ma allo stesso tempo non stare ripiegati su se stessi nella tristezza del ricordo, ma è una proiezione alla vita e a tutto quello che viene, che ti darà. Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Uno splendido lascito che avete valorizzato con la Run for Mem, la corsa della memoria. Il connubio Sport Memoria ha un futuro, secondo lei? Allora, senz'altro, insomma, così, mi fa molto piacere, è la prima volta, è vissuto, è molto delicato, e lo voglio anche condividere come riflessione con gli ascoltatori. Non è stato facile scegliere questo tema, perché è talmente è talmente toccante, delicato e struggente il tema della Shoah e della memoria che bisognava organizzare la corsa in modo tale che non sembrasse che noi organizziamo una festa spensierata di corsa, ma che si salvaguardavano, diciamo così, quegli elementi di attenzione, di rigore all'importanza del momento che si vuole ricordare, quindi trovare il giusto bilanciamento tra l'importanza e la pesantezza dell'evento rispetto alla spensieratezza che rappresenta la corsa e lo sport non è stato un obiettivo semplice, e quindi però l'abbiamo intrapresa questa sfida proprio perché lo sport unisce e rappresenta la vita, è per i giovani. Mi piace ricordare che a questa manifestazione hanno aderito anche i giovani musulmani, anche i giovani di Sant'Egidio, anche i giovani ebrei che sono venuti da diverse città europee, e che tutti assieme si è fatta questa corsa. Quindi diciamo, l'idea è di far vedere che quando si corre insieme si può rappresentare un valore importante. E allora complimenti, e mi sa tanto che ci vedremo il prossimo anno per la seconda edizione, eh? Intanto grazie a Noemi Di Segni per essere stata oggi nostra ospite. Grazie mille, grazie a voi tutti, e grazie anche ad Andrea Schiavon per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, buona serata.